La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, grazie per l'ascolto in diretta o in podcast in questo giovedì 22 di settembre qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi ringrazia come sempre e vi ringrazia anche perché avete ripreso, dopo che vi ho ricordato l'indirizzo, lo ripeto ancora una volta, la versione di Oscar che ho radio24.it, a scriverci per segnalarci argomenti di puntata, e questa puntata nasce proprio da lettere che abbiamo ricevuto che ci segnalano un caso che ha rilevanza non solo per l'economia del Piemonte e non solo del Piemonte, ma per molte migliaia di imprese che avevano la garanzia da parte del soggetto di cui parliamo oggi, che va in liquidazione per squilibri finanziari. Naturalmente stiamo parlando anche dei suoi 215 dipendenti, che ovviamente adesso hanno un problema nella vita, per così dire. Stiamo parlando del consorzio Fidi, uno dei più grandi in Italia, che va in liquidazione, si chiama Eurofidi. E la vicenda di Eurofidi, a cui a dire la verità ha prestato la stampa nazionale praticamente nessuna attenzione, la stampa torinese e piemontese ovviamente sì, ci è stata appunto segnalata da dipendenti dicendo: per favore occupatevene, ed è cosa che io faccio molto volentieri. Prima di presentarvi i nostri ospiti e andare nel merito della vicenda, io devo partire da un presupposto, cioè quello di non dare per scontato che chiunque di voi in ascolto sappia che cosa è cosa sono i Confidi. Quindi mi prendo un minuto semplicemente di spiega un po' banale e terra terra per capire che cosa sono i Confidi, che cosa fanno. I Confidi sono dei consorzi di garanzia collettivi che nei decenni sono diventati uno strumento abbastanza ordinario e che è nato soprattutto per le garanzie dell'accesso al credito o cartolarizzazione di esposizione del credito per le piccole, piccolissime imprese, per gli artigiani, per i professionisti. Sono diventati molto diffusi sul territorio nazionale, sono partecipati da soggetti pubblici, dalle associazioni di impresa, ce ne sono alcuni che sono emanazione diretta dell'associazione di impresa, ci sono per esempio quelle del sistema Confindustria, ci sono le banche che partecipano nel capitale. Era uno strumento ordinario fino a che non è arrivata la grande crisi. In questi anni di grande crisi, ovviamente, la maniera attraverso la quale funziona il consorzio Fidi è inevitabilmente stata esposta alle torsioni delle difficoltà del sistema del credito. Per capirci, stiamo parlando di 396 soggetti attivi nel territorio nazionale, si distinguono a seconda dell'articolo del TUF a cui sono sottoposti 107 e 106, ma insomma quasi 400, e di questi 400 quello che si è evidenziato nel corso dell'anno sono particolarmente tre tipi di criticità. Un tipo di criticità è quello della mancanza di valutazione di sistemi di esposizione a rischio, a fronte del fatto che inevitabilmente la percentuale di rientri rispetto agli obblighi di rateizzazione per rientrare delle garanzie sull'esposizione del credito o sulla cartolarizzazione dei debiti nei confronti del sistema bancario entrava in torsione, e in realtà i modelli di valutazione del rischio risultavano un po', come devo dire, primitivi. È un problema che c'è in tutto il sistema bancario italiano e naturalmente c'era anche nel consorzio di Fidi. Questo che cosa voleva dire? Che l'esposizione patrimoniale dei consorzi Fidi a fronte delle garanzie e controgaranzie prestate, perché c'è poi un problema anche di controassicurazione del rischio, tutte attività finanziarie collegate su questo, diventava sempre più rilevante per alcuni, fino al punto da mettere a rischio la continuità patrimoniale e quindi gli stessi soggetti di questi Confidi. Il terzo era che nel frattempo, dibattiti parlamentari e così via, quest'estate è arrivata una delega al governo appunto per tentare di trovare nuovi strumenti, oltre a quello del fondo di garanzia centrale, del Mediocredito Centrale, che è un po' il polmone finanziario di copertura del sistema Fidi. Copertura non significa acquisizione diretta dei rischi assunti dai Confidi, naturalmente, con discorsi di lunga prospettiva, accedere di più e meglio ai fondi europei, eccetera eccetera. Però in buona sostanza i primi due punti, quelli di crisi strutturale della solidità patrimoniale, hanno significato molte meno garanzie erogate, perché eravamo da oltre 20 miliardi annuali in media nel pre-crisi, siamo scesi a una cifra che non è più a due cifre. Quindi, come ovvio, erano in difficoltà, e secondo, il rischio che alcuni o molti di essi finissero contro un muro se i soci ovviamente non le ricapitalizzavano. E puntualmente quello che è avvenuto visti i disastrosi bilanci 2015, a Eurofidi a Torino. Eurofidi il 15 di settembre, quindi una settimana fa, è stato posto in liquidazione perché di fronte alle esposizioni e al totale dei debiti oramai accumulati, i soci di Confidi in Assemblea e quindi Finpiemonte, la Regione, ma anche Unicredit, Intesa San Paolo, il Banco Popolare, eccetera, eccetera, hanno detto: qui, signori, è inutile ricapitalizzare, bisogna andare alla liquidazione. Stiamo parlando, nel caso di Eurofidi, che appunto è uno dei più grandi, il più grande consorzio italiano di garanzia Fidi, di 57.000 imprese associate, di cui il 40% sono piemontesi, con 2 miliardi e 600 rotti milioni di garanzie in essere. Quindi ci sono tre problemi. Primo, non si poteva proprio evitare, è giusta questa decisione. Secondo, cosa succede adesso alle decine di migliaia di imprese che si trovano esposte? Terzo, naturalmente, cosa succede ai dipendenti? Ecco, questa è la sintesi che ho provato a fare in maniera, spero, non commettendo troppi gravi errori. E noi abbiamo due ospiti per parlarne. Innanzitutto Massimo Ariano, che è il direttore generale di Eurofidi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E c'è anche l'assessore al sviluppo economico della Regione Piemonte, Giuseppina De Santis. Grazie anche, assessore, di essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Allora, Ariano, innanzitutto la sintesi, la prego di dire ai nostri ascoltatori, comprendeva qualche errore e comunque, al di là di questo, mi corregga tutti gli errori necessari, vuole aggiungere... Lei l'abbiamo chiamata come se fosse a nome di tutti i dipendenti. Qualcuno penserà, ma come un direttore generale a nome dei dipendenti? Io penso, da quello che so, che si possa assumere, pur senza una delega formale, la sua voce come se fosse tutta quella dei dipendenti. Ci vuole aggiungere, dal suo punto di vista, l'evoluzione nel tempo rispetto a questa debolezza patrimoniale crescente rispetto alla decisione assunta dai soci? Non c'è l'alternativa davvero? Che ci dice Ariano? Allora, io non sono un socio, ovviamente, tanto la ringrazio della sua esposizione, come sempre corretta, la seguo volentieri nelle sue trasmissioni perché mi piace il suo stile tranchant rispetto a tutti gli esponenti, quindi questo le fa onore. Detto questo, sì, lei si è preparato e ha detto tutte cose corrette. Una cosa gliela rettifico, nel senso che più che un problema finanziario, perché Eurofidi è dotato di come tutti gli assicuratori, incassano premi e premi e poi pagano, quindi un sacco di liquidità. Quindi sotto profilo della capacità di far fronte ai propri impegni, Eurofidi dispone di una liquidità abbondante. Invece il problema è patrimoniale. Il problema patrimoniale, forse bisogna essere molto tecnico e mi scuso da questo punto, ma cerco di far capire. Il grave deficit che è avvenuto non è per un deficit sostanzialmente dovuto a un disallineamento economico, quanto al tema delle garanzie inefficaci, quello che lei ha detto, le controgaranzie. Cosa è successo? Che in modo consapevole Eurofidi si è accorto che le garanzie che si ritenevano efficaci presso il Fondo Centrale presentavano un'aliquota importante di inefficace. In particolare è stato commissionato a una società esterna, la Deloitte, un calcolo molto preciso, molto puntuale e asseverato per quanto riguardava il calcolo di questa inefficacia. L'ammontare degli accantonamenti necessari per far fronte a questo rischio è stato di circa 32 milioni, a cui si sono aggiunti 8 milioni di un ipotetico rischio per un fondo alluvione, quindi in realtà la perdita patrimoniale sarebbe stata di 10 milioni. Di questi 10 milioni, 8 erano sempre dovuti agli inefficaci del 2015. Quindi sostanzialmente un Confidi grande come Eurofidi, che è il più grande d'Italia, fra i primi in Europa, avrebbe avuto una perdita di 2 milioni. Insomma, quindi tutto sommato non così drammatica, se vogliamo dirla. Certo che il deficit patrimoniale causato da questi accantonamenti è stato così forte che ha ridotto il patrimonio sotto i limiti dei ratio necessari per esercitare l'attività vigilata della banca. E di lì in poi, cioè, ovviamente, senza una ricapitalizzazione non si sarebbe potuto continuare a fare banca. Quindi questo è per il primo punto. Invece sotto il secondo punto, cosa succederà alle imprese? Le imprese, il giorno dopo che è stato deciso dall'Assemblea, richiesto al CDA, visto che mancava la ricapitalizzazione, questo 28 luglio, di sospendere l'attività creditizia, sono stati fatti accordi con altri confidi immediatamente in modo dirigente per accompagnare le imprese ad avere la garanzia presso altri partner. E questo per mettere in grado chi aveva soprattutto l'imminenza di una scadenza di non trovarsi senza una garanzia, col rischio che la banca escutesse l'impresa. Quindi questo Eurofidi si è fatta subito parte dirigente. Va da sé che bisogna cercare una collaborazione ancora più ampia con tutti i soggetti, domani sarò a Roma con Assoconfidi per parlarne, per fare in modo che tutti diano una mano alle imprese. Quindi lei dice il sistema è cooperativo ed efficace al punto tale che tutte le imprese che avevano rapporti in essere con Eurofidi non dovrebbero avere problemi. Si cercherà di minimizzare, non dico che non ci possano essere problemi, perché poi di fronte al cambio di una garanzia una banca potrebbe essere d'accordo o non d'accordo per gradire il nuovo consorzio, deve vederlo. Però tendenzialmente noi siamo fatti subito parte dirigente per fare in modo che nessuna impresa avesse, o perlomeno di ridurre al minimo possibile l'impatto verso le imprese. E la terza parte, che è quella dei dipendenti, aggiungo una cosa molto importante, rendersi conto di questa problema dell'efficacia, da quel che mi risulterebbe il primo a tirare fuori è stato proprio Eurofidi. Eurofidi stessa ha cambiato i propri processi, per cui i processi attuali sono molto più efficaci di quelli in passato. Cosa potrebbero essere oggetto di veramente di attenzione? Se questo mondo di inefficaci riguarda tutto il sistema finanziario, bancario e di confidi, io credo che se il mondo finanziario si rende conto della gravità delle percentuali inefficaci, perché è un fenomeno diffuso da quel che mi risulta, ecco, dovranno cercare delle competenze. Le migliori competenze sono presso questo confidi. Dunque, tradotto, visto che si parla molto di recupero delle redditività necessarie per il modello bancario, cioè di cambio di gestione e soprattutto di tecniche di valutazione attraverso non solo modelli ma professionisti esperti nel campo della valutazione dei rischi, cioè questo serve per avere gli asset pesati per i rischi, serve per i ratios patrimoniali, capire quanto patrimonio e capitale serve davvero alle banche, cioè per non arrivare in condizione di dover fare gli aumenti di capitale che poi finiscono con l'acqua alla gola, come stiamo vedendo. Per far questo ci vorrebbero professionalità che voi dite si possono attingere esattamente dal vostro mondo, così? Esatto, perché il nostro mondo, fra l'altro, in particolare questo, è quello che è alle eccellenze di questa professionalità. Non fosse altro che è stato il primo, accorgersi di sbagliare, è stato il primo a mettere i correttivi per gli sbagli. Però siamo avanti rispetto agli altri. Le faccio un'obiezione. Se si fosse trattato di pochi milioni di necessità patrimoniale aggiuntiva, se si fosse trattato di... Lei ha parlato di cifre molto limitate. Come mai i soci allora si sono rifiutati? Perché i giornali... Io poi ho letto La Stampa in questi giorni. La Stampa parla di... oltre 3,5 miliardi di esposizione, leggo un articolo del collega Gianluca Paolucci sulla Stampa, verso le imprese clienti di Eurofidi 1,6 miliardi sono classificati tra i crediti difficili per dire, cioè come dire, in realtà la necessità patrimoniale di far fronte al problema era molto più rilevante di quello che mi è sembrato di capire dalla sua... Ci sono due aspetti importanti, per questo è stato fatto un piano industriale validato da tutti in continuità che prevedeva il rilancio di Eurofidi. Allora, il primo pezzo è l'accantonamento, che come è noto non esercita effetti finanziari perché è un accantonamento in bilancio. Insomma, fra i due accantonamenti, quello fondo alluvione e quello dell'inefficacia, ammontava a 40 milioni, che è una cifra rilevante, a cui sono aggiunte, come detto, la perdita, chiamiamola, del margine operativo di 10 milioni, anche se in parte era dovuta sempre a accantonamenti straordinari. Quindi il modello, ancorché andesse rivisitato, i piani industriali infatti vedevano una completa rivisitazione delle missioni dei confidi, che è un po' quello che lei ha detto, ma noi i confidi devono cambiare pelle, devono imparare a fare quello che le aziende piccole hanno bisogno, una consulenza alle imprese per avvicinare al mondo del credito, con la differenza che anziché ricevere le garanzie direttamente dal sistema bancario, devono scegliere loro i clienti, devono rapporto diretto con le imprese per essere al loro servizio. Mi piace questa maniera di dire che bisogna cambiare pagina. Torniamo tra... La versione di Oscar. Eccoci tornati qui in questo giovedì 22 settembre al tema della trasmissione richiestaci da dipendenti di Eurofidi. Eurofidi, il più grande consorzio di garanzia alla piccola impresa, artigiani e professionisti per le garanzie nell'accesso al credito o cartolarizzazioni, a Torino, avviato in liquidazione pochi giorni fa dai suoi soci, tra i quali oltre a banche c'è la Regione Piemonte. Abbiamo tentato di farvi una sintesi dei problemi patrimoniali che hanno spinto i soci a dire no, bisogna liquidare, tentando anche di dire alle decine di migliaia di imprese che hanno rapporti in essere di garanzia con Eurofidi, ora andrete a carico di altri, attenzione, perché dovrete valutare se il subentrante riprende alle stesse condizioni o meno la garanzia offerta. Resta il problema naturalmente anche dei dipendenti. Allora, Assessore De Santis, innanzitutto, lei da quando è entrata in carica e ha avuto visione di questo fascicolo, alla fine si è trovata a condividere la valutazione delle banche socie dicendo andiamo a liquidazione, oppure come regione pensavate altro? Noi abbiamo cercato fino all'ultimo di capire se c'erano le condizioni per tenere in piedi Eurofidi. Vorrei cominciare col dire una cosa: i giornali in questi giorni hanno scritto abbondantemente di crack. Sì. Crack significa una cosa disordinata, con conseguenze, portare i libri in tribunale, mettere la gente per strada e non sapere che cosa succede dopo. Ciò che Regione Piemonte si è impegnata a fare in accordo con i soci istituzionali del Confidi, quindi in primo luogo le banche, certo, è una liquidazione, che è una cosa completamente diversa. No, certo. E quindi io so che sei una persona di questo ho parlato, è responsabile. Ho sentito ieri che lei preannunziava una puntata sul crack di Eurofidi. Vorrei dire che qui non c'è nessun crack, c'è anzi l'impegno dei soci a garantire un processo ordinato che tuteli le imprese, come ha detto prima il dottor Ariano, e che faccia anche il possibile per tutelare le professionalità dei dipendenti. Questo è un primo punto. Il secondo punto è che io non mi ritrovo tanto nei numeri fra imprese piemontesi e imprese non piemontesi. La verità, il dato che io posso darvi è che al 31 di maggio su 2 miliardi e 9 di garanzie in essere, poco più di 600 milioni erano prestate a favore di imprese piemontesi, la regione che sia pur di poco, ma insomma sono 670-680 milioni, ne aveva di più, è la Lombardia, e tutto il resto è su tutta Italia. Sì. Allora, noi abbiamo un problema, che è quello di tenere insieme tre cose: la sicurezza, ovviamente, rispetto al sistema delle imprese, la tutela delle professionalità dei dipendenti, ma anche, mi lasci dire, noi dobbiamo rispondere ai contribuenti dell'uso che facciamo dei soldi pubblici. E poiché ulteriori approfondimenti svolti in questi mesi continuavano a dirci che non si vedeva dove fosse lo stop loss, questo voglio che sia chiaro, dove si sarebbero fermate le perdite, quanti soldi sarebbero stati ancora necessari, perché il dottor Ariano ha parlato di 8 milioni di perdite su inefficacie ancora nel 2015. Posso farle una domanda? Siccome c'è il precedente di, a questo proposito, quindi non voglio interrompere, per il suo filologico, c'erano bilanci in perdita dal 2012? Sì. 2012, 2013, dal 2014? 13, 14, esatto. 12, 13, 14 e 15. 17 sì. milioni nel 2012, 27 nel 2013, così. 7,5 nel 2014. Quindi diciamo, i soci, la regione, naturalmente conta il diverso colore politico, non mi sfugge nel tempo, però il tempo è passato con difficoltà che diventavano evidenti. Allora, quello che noi abbiamo fatto, intendo in questo caso noi come questa giunta, è stato di in primo luogo nominare un nuovo consiglio d'amministrazione, cambiare il management e cercare di capire che cosa ci fosse dentro. E in una prima fase il Confidi aveva deliberato un aumento di capitale di 50 milioni, che era un aumento di capitale che avrebbe dovuto svolgersi gradualmente nel tempo, per non alterare mai il fatto che la maggioranza del capitale sociale doveva comunque rimanere in mano alle imprese, altrimenti avrebbe perso la sua natura di Confidi. Questa è un'ulteriore, diciamo, complicazione di questo oggetto, che è un unicum a livello nazionale, non ce ne sono altri Confidi così. Allora, noi abbiamo cercato di capire la dimensione del problema, di sostenere questo passaggio, ma poi anche appunto che sul quale c'erano già allora molte esitazioni da parte delle banche che hanno votato l'aumento di capitale, ma si sono riservate se sottoscrivere, se poi aderire o no. E poi siamo andati avanti cercando di capire e di fare ordine, perché questo Confidi stava anche in una galassia della quale la regione non fa parte, ma era legato ad altre società con rapporti di servizio rispetto alle quali bisognava anche qui fare chiarezza. Il dottor Ariano ha ricordato che i Confidi, almeno questo sembra di capire da tutto quello che si legge, ma che il modello Confidi deve cambiare, che deve specializzarsi sulla consulenza, questo mestiere Eurofidi non ce l'aveva in casa. Lo faceva un'altra società, di cui erano soci le imprese, ma non i soci istituzionali. Questa è una complicazione in più che noi ci siamo trovati di fronte. Abbiamo cercato di fare ordine da questo punto di vista e di capire se c'erano le condizioni per riportare il Confidi in bonis, tant'è che Eurofidi medesimo ha operato una pesante ristrutturazione in termini di personale. Oggi sono 217 i dipendenti, di cui 114 in Piemonte e un centinaio in giro per l'Italia, 93 hanno lasciato Eurofidi nel corso dell'anno precedente. Nonostante tutto questo, non si vede ancora né un dimensionamento vero delle sofferenze, né quindi delle inefficacie e inefficienze, né un modello possibile in queste condizioni di ritorno, non dico all'utile, perché forse un Confidi non deve fare utili, no, certo, ma al pareggio di bilancio, al pareggio, certamente, all'equilibrio, sì, all'equilibrio di bilancio e alla capacità di accantonare. Esatto, l'equilibrio e la solidità patrimoniale a fronte e la degli impegni. Patrimoniale. Abbiamo avuto innumerevoli confronti con i soci, con il MISE, ma non è emersa una possibilità diversa. E devo dire, ripeto, che c'è anche una responsabilità, nel senso che non è che qua stiamo parlando dei soldi che eventualmente escono dal mio privato portafoglio, di cui faccio l'uso migliore, l'uso che credo e non devo rendere conto a nessuno. Apprezzo anche questo. Parlando di soldi dei contribuenti, che oltretutto, se c'è stata una gestione imprudente del Confidi negli anni passati in tutta Italia, andrebbero a ripagare questo tipo di errore. Allora io non trovo che sia corretto, è un tema sul quale io bisogna devo ragionare. Dire la verità, su questa conclusione dell'assessore, al di là del merito della vicenda che abbiamo tentato di ricostruire anche per stare vicino ai dipendenti e alle imprese che hanno rapporti in essere con Eurofidi, però su questa conclusione dell'assessore, sul fatto che bisogna voltare pagina, non è che bisogna solo coprire il passato, anche perché ci sarebbe molto da dire su chi ha gestito in questi anni, secondo me in alcuni anni fa Eurofidi. Io su questo sono molto d'accordo, questa cosa delle garanzie che attraversa le difficoltà gestionali sia delle banche che dei Confidi è uno dei grandi capitoli che va affrontato con una testa nuova, non ripagando il passato e basta. Comunque, grazie a Massimo Ariano, grazie a Giuseppina De Santis, torneremo naturalmente nel tempo, cari amici di Euroconfidi, a dare informazioni su di voi. Continuate su Radio 24, appuntamento all'8:20 domani mattina con me, Alessandro Minella, Antenne 2.